la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo giovedì alle 16.30, primi 40 secondi, siamo in diretta agli studi di Radio 24 di Milano, questo giovedì 2 aprile, mi sono dimenticato di dirlo naturalmente, e vi ricordo l'indirizzo, la trasmissione versione di Oscar, @radio24.it per segnalarci temi e autocandidarsi a parlare delle vostre storie, oltre che esprimere critiche ovviamente, e vi ricordo anche il numero di telefono per intervenire oggi, 800 24 00 24, e il numero per gli sms 349 238 6666. Di cosa parliamo oggi? Tentiamo di porvi degli interrogativi di fronte ai dati controversi che hanno suscitato molte polemiche sull'occupazione emersi in questi giorni. Oggi non mi interessa tanto, anzi per nulla, oggi fare polemiche sulle anticipazioni che sono venute sulle comunicazioni obbligatorie prima del ministro Poletti, del governo che ha detto, ha vantato tra gennaio e febbraio moltissimi occupati in più dicendo tutto tempo determinato e così via. Avete capito, se avete seguito, che poi l'emergere di dati più completi ha fatto giustizia di parte di quella propaganda, e bisogna solo augurarsi che il rilascio dei dati sia un rilascio dei dati il più possibile rispettoso della possibilità per tutti, cittadini e studiosi, di elaborare i dati prima di tutto completi, quindi completi della decentralizzazione, completi del periodo, completi di tutti gli occupati contratto per contratto, al lordo e al netto di quelli che sono sottoposti alla decontribuzione e così via. Ma non mi interessa far polemica su questo, il punto è un altro, quindi vi chiedo, se siete giovani in particolare, donne in aggiunta, e poi anche se invece siete lavoratori che appartengono alla classe di età più elevate, che cosa avete capito e soprattutto che cosa vi aspettate, quale sarà l'effetto dei delle due grandi novità sul mercato del lavoro dall'inizio dell'anno, con la legge di stabilità, la decontribuzione, lo sapete, per gli assunti a tempo indeterminato, quasi 2 miliardi per quest'anno stanziati, fino a poco oltre di 8.000 euro di decontribuzione per ogni contratto a tempo indeterminato. Sapete che è una misura triennale, anche se poi bisognerà renderla strutturale, potrebbe non bastare la cifra stanziata già per quest'anno. E poi la seconda cosa, ovviamente, il contratto a tutte le crescenti, che entra in vigore adesso per via dei decreti attuativi del Jobs Act. Allora, a vedere i primi dati di cui abbiamo, ragionando quindi freddamente sui dati al netto delle polemiche politiche, vengono dei dubbi, perché speriamo che siano smentiti nei mesi successivi, ma i dati che noi abbiamo vedono un'occupazione che a febbraio ha registrato 44.000 posti in meno in Italia, con una disoccupazione di nuovo in crescita al 12,7%, con quella giovanile in crescita al 42,6%. Il più di quei 44.000 posti di lavoro in meno sono tutti tra le donne, e in più negli ultimi tre mesi è cresciuto il tasso degli scoraggiati, che cioè cercano ancora meno lavoro, quindi hanno ancora meno fiducia di trovarlo, perché è risalito il tasso di inattività nel più 0,3%. Allora, questi tre, anzi quattro aspetti: il dato dell'occupazione complessiva che scende, secondo, il dato della disoccupazione invece giovanile e femminile che sale, e il quarto, la crescita del tasso di inattività, pone dei dubbi, e pone dei dubbi anche su, speriamo che avvenga, sui contratti nuovi che le imprese, e questo era il dato da cui era partito il ministro Poletti tre giorni fa oramai, dopo aver atteso a braccia incrociate i nuovi incentivi e il Jobs Act per metà almeno del 2014, iniziano a sottoscrivere, perché la domanda diventa: ma in quei contratti a tempo indeterminato non è che per caso le imprese faranno sostituzione di contratti precedenti non a tempo indeterminato per avere il bonus eccetera eccetera, ma a quel punto è difficile immaginare che siano soprattutto i giovani a beneficiarne? Prima domanda. Secondo, e non solo riguarda i giovani, ma se fosse così, cioè un effetto di sostituzione soprattutto più che occupazione aggiuntiva, è difficile immaginare che ovviamente questo abbia anche un effetto positivo sugli scoraggiati, cioè che incoraggi ad innalzare il tasso di attivi di coloro che cercano il lavoro perché sono convinti di poterlo trovare. Più elevato è l'effetto sostituzione, minore è l'effetto per incentivare alla crescita il tasso di attività. E visto che noi abbiamo un gap accumulato sul tasso di occupazione femminile, non è che per caso anche qui, terza domanda, i pur positivi effetti dell'incentivo molto forte, i contratti a tempo determinato stabiliti dal governo, più il contratto a tutele crescenti del Jobs Act, avrà anche sotto questo terzo punto di vista un effetto forse meno mirato su coloro che erano i più penalizzati sul mercato del lavoro in questi anni di quanto non si immaginasse? Sono solo domande, perché i dati che abbiamo a disposizione ci indicano per il momento le cose di cui non essere soddisfatti, ma non ci danno la certezza della risposta. Però sono domande pesanti, per così dire, perché vale la pena di interrogarsi. E quindi, in attesa di capire dalle vostre telefonate che cosa vi aspettate, se siete giovani, siete donne, siete scoraggiati da cercare lavoro, oppure siete lavoratori di classi, per così dire, più avanzate e che però vogliono vedere il proprio contratto cambiato a tempo determinato, lo abbiamo intanto chiesto, tutta questa serie di considerazioni, all'ospite di oggi che insegna economia politica alla Bocconi e si chiama Vincenzo Galasso. Grazie professore di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a voi. Lei che cosa dice, pur con la premessa che ho già fatto, che i dati non ci consentono di arrivare a conclusioni, però se fossimo in presenza di un effetto sostituzione di contratti molto forte, è vero o no che a quel punto i più penalizzati in questi anni di crisi forse sarebbero molto meno beneficiati di quanto ci aspettiamo? Ma sicuramente questo è una possibilità, soprattutto diciamo al momento in cui entrano in vigore le applicazioni di regole nuove, ci aspettiamo che ci sia un po' di shopping, se volete, e quindi una sorta di sostituzione di questo genere. Però poi dobbiamo distinguere tra quelli che sono, come dire, degli effetti transitori e quelli che possono essere eventualmente effetti un po' più di lungo periodo. Quindi mi aspetto che ci possa essere un po' di sostituzione all'inizio, mi auguro che soprattutto nel caso del contratto a tutele crescenti, però questo possa avere poi degli effetti di lungo periodo. Una delle grandi, diciamo, problematiche che abbiamo incontrato nel corso degli anni è stato quello del fatto che l'uso dei contratti a tempo determinato ha ridotto di molto quello che era la formazione a livello di impresa. Quindi, per esempio, una delle cose che potrebbe agevolare in un futuro i giovani è che diciamo, le imprese possano avere poi, come dire, un incentivo maggiore a fare formazione, una delle cose che secondo me ci ha fatto più male nel corso di questi anni, soprattutto ai più giovani. Scusi, io la interrompo su questo punto, perché dai dati che abbiamo, quelli dati, ecco, non opinioni, d'inizio d'anno, vediamo proprio dal punto di vista della formazione diminuire i contratti di apprendistato. In Italia noi abbiamo fatto una scelta storica, per così dire, che è una scelta storica molto diversa dall'istruzione duale tedesca, sia nel ciclo della secondaria che nell'istruzione poi terziaria e addirittura post terziaria. Noi abbiamo fatto una specie di marcia all'indietro rispetto alla Germania con la licealizzazione e l'accesso per tutti all'università. Il risultato è che abbiamo un'occupabilità giovanile molto più bassa, un avvicinamento o un ingresso, quando ci si riesce, dei giovani sul mercato del lavoro molto più ritardato nel tempo e a percentuali molto più basse di quelle tedesche. E questo dipende proprio anche dal fatto che innanzitutto non c'è un percorso di formazione nella formazione pubblica in cui c'è fin dall'inizio del ciclo secondario un vero appaiamento tra imprese e curricula e offerta di formazione pubblica. E poi la seconda cosa è che abbiamo scelto un apprendistato che è completamente diverso da quello tedesco e che adesso è addirittura in diminuzione, perché in realtà poi alla fine negli anni era diventato l'apprendistato soprattutto una modalità per abbattere dal punto di vista contributivo i costi altrimenti più elevati di altri contratti, più che per fare formazione vera. Infatti il sindacato era sempre contrario, più che altro, più che favorevole ai contratti di apprendistato. Ecco, come si può immaginare secondo lei che queste due scelte, che sono due scelte pesanti di sistema, si superino tornando invece a fare più formazione per i giovani? Io più che ai contratti di apprendistato mi riferivo ai dati che mostrano quanta formazione venga fatta alle persone che hanno un contratto a tempo determinato rispetto invece a quelle che hanno un contratto a tempo indeterminato, e diciamo i dati anche sugli anni passati mostrano che in effetti le imprese investono molto di più, ovviamente direi, sulle persone che hanno un contratto a tempo indeterminato, e c'è da dire anche che lo stesso avviene da parte dei lavoratori, che hanno molto più interesse a, come dire, acquisire capitale umano che può essere specifico a una determinata impresa se hanno una legittima aspettativa di rimanere per un po' di tempo in quella impresa. Quindi mi riferivo più a questo aspetto sul quale purtroppo i dati ci mostrano che l'Italia non fa abbastanza formazione, soprattutto riguardo agli altri paesi. Sono perfettamente d'accordo con lei sul fatto che esiste uno scollamento forte tra quelle che sono le richieste diciamo dal lato delle imprese e quella che poi invece è la formazione che viene data ai ragazzi che in teoria entrano nel mercato del lavoro magari non attraverso l'università. Oddio, diciamo che c'è uno scollamento anche tra quelli che fanno l'università e la domanda da parte delle imprese. Questo è un problema sicuramente enorme che l'Italia non riesce evidentemente ad affrontare come fanno altri paesi, quali mi vengono, lei citava la Germania, ma la Svizzera è un altro ottimo esempio, certo, di paesi che riescono a formare. Questo purtroppo credo che ci siamo probabilmente anche un problema di carattere ideologico in Italia e su questo stiamo immolando parecchie generazioni di giovani. Esattamente, io ricordo a tutti che la differenza di tasso di occupazione nella classe giovane, quindi fino a 24 anni, senza estenderla troppo, tra noi e la Germania sono 29 punti percentuali, cioè noi siamo a 16, loro sono a 30 punti in più. Naturalmente dovete intendere che per occupazione non significa che in Germania lavori quasi uno su due tra i 15 e i 24 anni a tempo pieno eccetera eccetera. Occupazione significa partecipare al mercato del lavoro con cose a tempo, con cose, però la differenza è che per noi è quasi di 30 punti la differenza, che è una differenza terribile, cioè quella è la partecipazione femminile e dei lavoratori sopra i 55 anni sono i nostri tre punti deboli di sistema, rispetto ai quali bisogna sperare che Jobs Act abbia un effetto innanzitutto per quelli, ecco, perché si tratta lì di alzare il tasso di partecipazione al mercato del lavoro. Un'altra cosa per riflettere, voi che siete a casa, il 44 nell'anno universitario 2013-2014 il 44% del totale degli iscritti all'università tedesche frequentava università cosiddette professionalizzanti, le Berufsakademien, Akademien, oppure la seconda tipologia di università professionalizzanti in Germania, il 44%, da noi meno dello 0,4%, perché da noi l'università non è un'università professionalizzante neanche con il 3 più 2, anche questo ha un fortissimo impatto perché in Germania esistono tantissime università che addirittura sono di riferimento per dei poli produttivi e per interi settori, avviene per l'auto, avviene per altri settori dell'economia. Da noi è considerata una cosa in cui i professori universitari per primi guardano con sospetto all'idea di fare università professionalizzanti, perché significherebbe dire i privati, la mercificazione del sapere eccetera eccetera. La differenza però sono tassi di occupazione molto più elevati e quindi non condannare generazioni intere di giovani a dover poi sperare in che cosa? Nel fatto che per avere una partecipazione più elevata si deve tornare ad abbassare l'età della pensione di chi intanto ha un posto a tempo determinato. Mi sembra una scelta sbagliata, però questa è una delle possibilità che abbiamo percorso in questi anni. Lei ha scritto, professor Galasso, qualche anno fa insieme a Tito Boeri un libro dal titolo secco che a me era molto piaciuto, Contro i giovani. Lei pensa che con queste riforme di questo governo qualche passo lo stiamo facendo per tentare di risolvere i problemi che lei aveva messo a fuoco con quel libro? Guardi, noi l'abbiamo scritto nel 2006-2007 e sicuramente la situazione dei giovani era di gran lunga migliore di quella che è oggi, già. Quindi diciamo rispetto a quando l'abbiamo scritto c'è stato un peggioramento radicale con la crisi. Assolutamente sì, credo che alcune delle cose che stanno accadendo possano potenzialmente andare nella direzione giusta e questo potrebbe essere soprattutto il Job Act. Quello che mi spaventa, e qui mi rifaccio a quello che diceva lei, è che ci possa essere anche solo il pensiero, come del resto c'è stato forte ed era pensiero dominante negli anni 70-80 e non solo in Italia ma anche in Germania e tanti paesi europei, ovvero l'idea di mandare in pensione prima i lavoratori anziani per fare posto ai giovani, cosa che sappiamo non essere vera, cioè questa è un provvedimento che è stato utilizzato ad ampie mani sia da noi sia da altri negli anni 70, anni 80, però purtroppo non funziona, nel senso che i dati ci mostrano che i paesi che hanno avuto e hanno ancora tassi di occupazione molto bassa tra gli anziani, e non me ne vogliono, anziani intendo dire 50% certo. Più, esatto. Sono anche i paesi che poi hanno tasso di disoccupazione più elevati tra i giovani. Tra i giovani, cioè, esattamente. Quest'idea che, come dire, che ci sia una specie di staffetta lavoro... generazionale, basta mandare via prima chi lavora e lo sostituisce con chi non ha le stesse competenze. No, non è così. Non è così, capisco che pensare al mercato del lavoro come una specie di autobus durante l'ora di punta, per cui se non scende qualcuno non riusciamo a entrare, sia un'immagine che tutti comprendono, ma non è così, non funziona così, e quindi sicuramente questa non può essere la politica da adottare. Peraltro abbiamo imparato che molto spesso funziona al contrario, nel senso che per mandare in pensione presto delle persone dobbiamo aumentare l'aliquota contributiva, cioè pagare più tasse, aumentiamo il cuneo fiscale, aumentiamo il costo del lavoro, e i primi a pagare quando il costo del lavoro è troppo elevato sono le donne e i giovani. Esattamente. In realtà molto spesso accade esattamente il contrario. Il contrario, che per mandare in pensione prima gli altri ci sarà ancora meno lavoro per chi ne ha meno oggi. Ricordo a tutti che oggi l'Istat ha rilasciato anche un aggiornamento di altri dati, ce n'è uno molto per me significativo, che ricordo chi è in ascolto, lo troverete sui giornali domani, se non avete già sentito le lezioni giornali radio. Il profitto delle imprese non finanziarie italiane nel 2014 è ai minimi da che esiste la serie storica rilevata dall'Istat a questo proposito, che è solo dal 1995, però è ai minimi dal 1995. Ci pensasse bene la politica che vi viene a raccontare che adesso le imprese devono fare la propria parte. Ecco, le imprese sono ai minimi dei profitti sul valore aggiunto da che l'Istat rileva il dato. Non stanno proprio in buone condizioni queste imprese italiane, ci sono le eccezioni, ci sono le 200.000 in filiera sotto le 5.000, il grande del quarto capitalismo italiano, che ci fanno il quinto surplus nell'attivo commerciale nel solo manifatturiero, però in generale i profitti mai così bassi. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16:48, primi 50 secondi. Stiamo ragionando sull'ipotesi degli effetti alla luce dei dati controversi che ci sono stati con le polemiche politiche, prima sulle comunicazioni obbligatorie, una parte dei quali è stata annunciata dal ministro Poletti, poi i dati complessivi, quelli dell'Istat, fino a febbraio purtroppo meno occupati e più disoccupati giovani e donne, e anche più inattivi. E quindi stiamo ragionando con il professor Galasso sugli effetti che decontribuzione e Jobs Act possono avere su coloro che in questi anni hanno avuto molta meno occupazione degli altri in Italia, cioè i giovani innanzitutto, ma poi anche le donne e gli over 55, perché sono i nostri strutturali punti deboli aggravati in questi anni di crisi. Alcuni dei vostri sms su questo. Non ci sono ancora segnali di posti di lavoro aggiuntivi, quindi moltissimi sms su questo, vediamo, ripeto, non possiamo andare avanti con le impressioni. Altri, come questo messaggio, dicono: la decontribuzione è una gran mossa elettorale, ma è come voler costruire un palazzo iniziandolo dall'attico. Se non ripartono i consumi non c'è esigenza di produrre, d'altro canto mettere i soldi in tasca agli italiani, vista la barca destinata ad affondare, non spingerà al consumo, come si vede sui risultati del bonus 80 euro, quindi ancora molto molto molto pessimismo da questo punto di vista. Qui ce n'è uno che mi piace, perché io minoritario ero di questa stessa idea, che forse i 2 miliardi, poco meno di 2 miliardi di contribuzione, se li avessimo concentrati sull'occupazione aggiuntiva rispetto alle piante organiche precedenti, e non quindi devolvendola a tutti i nuovi contratti a tempo determinato con puri effetti di sostituzione, forse avremmo avuto un traino ancora maggiore. Io resto convinto di questa idea, che è quella esposta dal professor Luca Ricolfi. Il governo su questo non ha voluto assolutamente ascoltarci, perché è ovvio che così ci sarà una platea di contratti a tempo determinato molto più elevata, e si potrà dire che tutti quelli derivano dagli 8.000 euro per ciascuno, mentre secondo me averla riservata solo per quelli aggiuntivi sarebbe stato un traino davvero crescente. Però abbiamo perso, cosa volete che vi dica? Allora, due telefonate e poi torniamo con le vostre opinioni sottoponendole al commento del nostro ospite. Cominciamo con Gianfranco, che ci chiama da Pescara. Prego Gianfranco. Buonasera signor Giannino, è un piacere parlare con lei. Senta, io volevo dire che questo governo secondo me non sta facendo altro che vendere del fumo, poiché se è vero, come dice l'Istat, che l'occupazione è in alto, come possono insistere e persistere nel dire che il lavoro tempo indeterminato sta aumentando. Io le porto un esempio pratico che ho mio figlio, 36 anni, sposato, un bambino, ed è costretto a vivere in casa con me. Le spiego perché. Perché lui lavora per una multinazionale che continua a fare un contratto trimestrale. Ora, come fa un ragazzo di quell'età, con moglie e un figlio, con un contratto trimestrale ogni tre mesi, a poter pensare di affittarsi una casa e andare a farsi una vita per conto proprio? Però Gianfranco, è proprio, a differenza che per le piccole, è proprio per le imprese medie e grandi e multinazionali a maggior ragione, che si aspetta un traino più elevato del contratto a tutte le crescenti sommato alla decontribuzione. Sentiamo poi cosa ne pensa su questo il professor Galasse, ma aggiungiamo ancora l'opinione di Vittorio che ci chiama da Bergamo. Prego Vittorio. Buongiorno dottor Giannino. Buongiorno. Intanto lei ha letto una mail che più o meno riassume un po' il mio pensiero, perché parla che se non parlano, dice che se non partono i consumi. Allora, io sono il direttore commerciale di una media azienda manifatturiera della provincia di Bergamo. Sì. Noi, come la metà delle aziende italiane, siamo in grado di aumentare la nostra produzione del 20-30% senza assumere una persona. Cioè, che tradotto significa, noi siamo infatti a minimi storici dell'utilizzo degli impianti, per essere chiari, perché è chiaro, con la domanda del mercato interno che è stata stagnante, anzi con segno meno per molti anni, chi non ha una percentuale molto elevata del proprio fatturato sull'estero si trova in queste condizioni, si è dovuto difendere e utilizza poco gli impianti. Quindi voi dite, Vittorio, quando anche ripartisse la domanda, prima di saturare quelle nostre possibilità potenziali e assumere qualcuno, passerebbe altro tempo. Ma era stato anche detto, Giannino, verso fine anno, anche all'inizio dell'anno, le previsioni avevano detto che nel 2015 l'occupazione sarebbe, esatto, diminuita, non aumentata. Vittorio, è così, solo che il governo, per così dire, guarda poco alle previsioni BCE, OCSE e così via, e ci tiene molto a dire che da subito ci sono i miglioramenti, che speriamo ci siano quando arrivano poi i dati ufficiali. Professor Galasso, che dice di queste opinioni raccolte random? Non sono naturalmente un campione statistico, però sono le opinioni dei nostri ascoltatori. No, io credo che il primo ascoltatore ha messo dito su una piaga molto grande, anche sociale, non solo economica. Noi siamo un paese da una fertilità bassissima, legata anche a funzionamento del mercato del lavoro e ha delle strutture familiari che non consentono certo, diciamo, ai giovani, che danno assicurazione a giovani, un'assicurazione che nasce all'interno della famiglia ma che poi creano tutta una serie di altre problematiche. Anche sono d'accordo anche con il secondo intervento. Purtroppo in questo momento ci possiamo aspettare probabilmente un inizio di crescita senza aumento dell'occupazione, perché le imprese hanno tantissime persone idle, tantissime persone ferme o comunque sottoutilizzate, quindi sicuramente non mi aspetto che l'inizio della crescita si traduca immediatamente all'inizio dell'occupazione. Un'occupazione aggiunta. Ma sulla stima, sul fatto che le imprese medio grandi e grandissime dovrebbero essere quelle a tirare di più sommando i due benefici introdotti dal governo, lei è d'accordo? Ma io credo di sì, per una questione di teoria economica, nel senso che comunque sono anche le imprese che beneficerebbero di più della possibilità di fare un po' di selezione tra i lavoratori, e anche quindi di fare un po' più di investimento sui lavoratori una volta che li hanno in azienda. Tutto sommato questi contratti consentono di non fare tantissimo screening prima, di vederli, di metterli alla prova e quindi anche di investire sulle persone. Questo potrebbe essere l'aspetto positivo. È ovvio che imprese più grandi, che tendenzialmente sono anche le più produttive, e questo è anche uno dei problemi grandi dell'Italia, sono quelle che si possono permettere un po' di più di utilizzare questo tipo di strumento anche per fare screening un po' nel corso del tempo. Però allora, la verità è che se non cresciamo come paese, cioè se non riprendiamo la crescita, e non ci dimentichiamo che noi siamo passati attraverso una crisi, ma venivamo da un periodo di stagnazione. La cosa è precedente alla crisi e precedente all'euro, sono più di 20 anni, se vediamo in termini di produttività comparata noi perdiamo colpi, e di crescita ovviamente comparata, quindi di PIL pro capite. Domenico da Torino, rapido perché mancano 20 secondi, ce la fai? Ok, grazie per la trasmissione. E due cose, io negli ultimi 15 anni ho lavorato nel digitale, io vorrei capire una persona di 67 anni che valore aggiunto può dare nel digitale rispetto a un ragazzo di 25 anni. Ho capito, cioè, Domenico, certo, però tu fai una domanda su cui l'evoluzione del settore è stata tale, la devi vedere anche da un altro punto di vista. Per molte imprese ci sono qualifiche nelle quali un overskilled avanti oltre i 55 non è paragonabile come produttività agli occhi dell'impresa di uno che va formato all'inizio. È chiaro, nel digitale vale il contrario, però in molte altre specializzazioni non è così, e noi dobbiamo essere oggettivi e freddi guardando il mercato del lavoro. Comunque, grazie al professor Galasso, grazie a voi tutti, continuate con la 24, appuntamento con me domani alle 16:30.